24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Dobbiamo solo decidere se metterci lo Stato di diritto sotto i piedi, spedire in galera il nostro presidente Berlusconi e beccarci il 50% dei voti che ne consegue. Magari con tutta calma domani vado a trovarlo e gli dico: abbiamo fatto un ragionamento in trasmissione che conviene anche a noi mandarti in galera. Vabbè. Magari Silvio si presta, torniamo tutti al governo. Ma sì, questa è la ricetta di Rotondi, magari conviene al centrodestra, dice pure, mandiamolo in galera al nostro presidente, così poi avremo un suffragio e andremo al governo con oltre il 50% dei voti. Buongiorno, questo è 24 mattino, sono le 6:34 minuti, oggi c'è il nostro Alessandro Longoni in redazione, che sostituisce Miriam Lucchetti questa mattina a quest'ora, non si può vedere, e l'alpino Peter Bescapè in regia, eccoci con noi, possiamo subito aprire il nostro Parlamento, di modo che voglio salutare... Il caffè volentieri a tutti quanti. Vabbè, come sempre Nicole Minetti ci offre il caffè e, come dire, voglio salutare l'onorevole Pina Picerno, buongiorno, ben svegliata. Buongiorno, che ci fa svegliata a quest'ora? Ma avete svegliato, avete tirato giù dal letto. Abbiamo tirata giù dal letto, vero. Mentre senta qui il padano Matteo Salvini, come già avrà prodotto il 2% del PIL nel frattempo. Matteo, buongiorno, eccoci. Siamo in giro da 2 ore qua. Vabbè. Non è proprio tornato a casa Salvini, io faccio campagna elettorale e quindi ieri sera sono tornata a casa tardi perché ci sono le amministrative. Dove sta facendo campagna elettorale? Sono nella mia caserta, a Chiano. E come va? Si vince a Caserta? Vincerete? Sicuro. La campagna è una regione molto difficile per il Partito Democratico. È un po' dura, un po' come un candidato del PD, che ne so, nella Val Brembana con i leghisti, mi sembra di capire. Allora, Matteo Salvini, come va con il bavaglino giallo della bimba? Tutto a posto? Dormendo, e fortunatamente non l'avete svegliata. No, l'abbiamo svegliata. Allora, Picerno, che dice? Ma secondo lei Berlusconi è ineleggibile? Andiamo subito così di prima mattina. Guardi, per la legge italiana è ineleggibile, diciamo così. Dopodiché è chiaro che ci sta una valutazione, c'è una valutazione di opportunità politica. Io la mia opinione personale, e l'avevo già espressa se non sbaglio proprio a 24 mattina proprio con voi, è ovviamente per votare a favore dell'ineleggibilità. Questa è la mia opinione personale. Ma così fate cadere tutto, così cade dopodiché, tutto. Dopodiché stavo aggiungendo, nel mio partito ci sono opinioni diverse che io rispetto, perché c'è chi ritiene che Berlusconi va battuto politicamente, diciamo così, non attraverso cavilli legati appunto all'ineleggibilità, eccetera. Quindi io rispetto questa posizione, noi faremo una discussione molto franca come quelle che siamo abituati a fare al nostro interno. Sono fin troppo franche le nostre discussioni. Infatti, incredibilmente c'è la notizia, Salvini, che il PD ha diviso su questo tema. È una cosa incredibile, effettivamente. Poteva essere una discussione franca che potevamo fare settimana scorsa prima di votare il governo. Sì, detto, è il loro alleato di governo. Ma comunque sì, ma sono, mi sa che sono quelle schermaglie politiche che si fanno un po' per tenere, no, sulle, o no, Picerno, per tenere un po' sulle spine, no? Guardi, noi non siamo abituati a giocare al rialzo, non ci interessa. Cioè, il Partito Democratico sta avendo in queste settimane sotto gli occhi di tutti un atteggiamento super responsabile di fronte alle continue provocazioni del PDL, no? Che continuano ad alzare l'asticella sulle giustizie, prima la manifestazione di Brescia, le parole utilizzate contro la magistratura, e poi hanno ripresentato, Costa ha ripresentato il provvedimento sulle intercettazioni, prima non c'era la maggioranza, quindi figurarsi ora. Sono 20 anni che parliamo di queste cose. Salvini, sono 20 anni che parliamo di queste cose. Sono ossessionati purtroppo, di una sessione ciclica questi del PDL sulle intercettazioni. Oggi sono contento perché oggi passa in giunta in Regione Lombardia con Maroni il primo provvedimento che destina il primo milione di euro per i genitori separati. Quindi onestamente oggi delle intercettazioni me ne frega molto poco. Questo è il cavallo di uno dei cavalli di battaglia di Salvini. Cerchiamo di promettere le cose e poi di mantenerle. Vabbè, allora voglio farvi meditare su quello che è successo a Milano. L'avete sentito forse dalla zanzara il nostro Giuseppe Cruciani? Con l'avvocato Piero Longo, l'avvocato Piero Longo che ci ha fatto venire in mente questa colonna sonora, questa, no, di film, ve lo ricordate? Clint Eastwood, Salvini, cos'è questa colonna sonora? Lì. No, stupendo, anche se... Che io l'ispettore preferisco. Callaghan, l'ispettore... Io preferisco amici miei di Tognazzi. Sì, no. Sentite Longo, avrebbe sparato a Cabobo. Lei contro Cabobo l'avrebbe usata la pistola? Immediatamente, dopo che avessi capito cosa stava facendo. Gli avrei sparato le gambe, sì certo, perché no? Perché basta sparargli le gambe perché finisca di dare picconate in testa alla gente. E allora se non si ferma, gli spariamo un'altra volta le gambe. Se proprio non si ferma, gli spariamo addosso. Questa è la regola. Perché lei non l'avrebbe fatto, si sarebbe dato a nascondere. Insomma, questa è la ricetta con la sua Ruger, con la sua pistola americana Ruger. Salvini, lei ha porto d'armi? No. No. No, avrebbe... e spero di non doverlo mai chiedere. Lei l'avrebbe usata la pistola avendo il porto d'armi su Cabobo in quella situazione? Guardi, sono sempre le discussioni che un conto è fare a mente fredda alle 6:40 mentre si passeggia in salotto. Un conto è farla in mezzo alla strada durante una rapina. Sicuramente se io sapessi che un essere umano sta morendo per mano di essere umano, qualcosa farei. Se avessi il porto d'armi senza ammazzare nessuno, però proverei ad evitare in ogni maniera che qualcuno uccidesse a picconate qualcun altro. Quindi probabilmente, detto a mente fredda, in salotto prima di uscire per andare a lavorare, lo farei. Lo farebbe. No, ma io effettivamente, Picerno, cosa c'è di scandaloso nel... Cioè, voglio dire, Longo dice, io porto la pistola. Avessi visto una scena del genere, le avrei sparato alle gambe per fermarlo, uno che piccona la gente. Ecco. Ma perché non è il compito di Longo, per questo ci sono delle forze dell'ordine che ma sono, se in quel momento non ci sono, garantire la sicurezza dei cittadini, e a loro il compito di occuparsi di queste cose. Certamente non è... diciamo compito né di Longo né di qualsiasi cittadino, altrimenti saremmo alla guerra civile, cioè ogni giorno assisteremmo a episodi di violenza senza precedenti. Quindi, tipo ispettore Carlaga, no? O il giustiziere della notte, chi era? Charles Bronson. Appunto, cioè c'è bisogno di... c'è un ordinamento, però, ci sono delle leggi, ci sono delle regole. Sì, ho capito, ma in quel momento la polizia non c'era. Siamo nel Far West, Salvini, diciamo che c'è? Oggi Radio 24 celebra giustamente e meritoriamente la giornata contro la violenza sulle donne. Sì. Se io sono in metropolitana, anche oggi è Salvini, vedo, mi rendo conto che vedo un tentativo è poco informato sugli argomenti. Però no, ma si riferiva a Radio 24, perché Radio 24 oggi fa una giornata contro il femminicidio. Come... Ecco, io vorrei ricordare che il 17 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata contro l'omofobia. Di ricordare che in Italia serve una legge contro l'omofobia, che ma questo si va a Salvini, che voleva dire su questa... Che se in metropolitana a Milano la sera io vedo un tentativo di stupro e non c'è la polizia, non è che mi limito a dire cacchio, sarebbe compito della polizia intervenire, io mi faccio gli affari miei, uso quello che ho a disposizione per cercare di evitarlo e per massacrare quel disgraziato. No, ma infatti, cioè, è chiaro che l'immagine messa così poi da detta da Piero Longo, poi voglio dire l'avvocato di Berlusconi, quindi ci mettiamo dentro tutto e dice certo, io ho la pistola e l'avrei usata immediatamente, che problema c'è? Cioè, nel senso, avessi visto una situazione del genere senza la polizia, cioè onorevole Picerno avrebbe salvato la vita delle persone che erano aggredite senza motivo. Cioè è chiaro che non è il suo compito, ma uno magari si trova in una situazione. Far West, non so come dire, se passasse quest'idea che qualsiasi passante dotato di pistola può difendere, cioè saremmo veramente al Far West, alla giungla, insomma alla difesa affidata come devo dire, alla volontà di ciascuno, alle impressioni di ciascuno. Cioè io voglio vivere in uno Stato che mi garantisce e tutela appunto i cittadini e assicura ai cittadini protezione, difesa, vicinanza. Voglio vivere in un paese in grado di garantire questo a tutti i cittadini. La sinistra da salotto, dice Salvini. Anche a me piacerebbe vivere in uno Stato bello dove sono tutti simpatici, dove nessuno sputa a terra e nessuno ammazza picconate la gente. Allora, però Salvini, visto che lei è anche appassionato di calcio, Stefano Appià, se lo ricorda Appià, anche se non ha giocato nel Milan, giocatore ghanese, viene intervistato oggi dal Giorno e dice: attenzione a non cadere nel razzismo, a volte la gente che viene dal Ghana viene da un'infanzia difficilissima, non è una giustificazione. Per esempio lui dice: io quando sono arrivato in Italia, fa un paragone che non c'entra, non sapevo neanche usare la forchetta, non sapevo mangiare gli spaghetti con la forchetta. Veniamo da situazioni in cui la fame, la disperazione possono portare anche alla follia. Questo dice oggi il calciatore Stefano Appia. È pericoloso, ci sono alcuni quartieri di alcune città italiane dove la fame, l'analfabetismo la vigono da padrone. Cosa facciamo? Allora ciascuno è titolato. Non è titolato, nel senso che non è una giustificazione, ma è un tentativo di interpretazione di quello che può essere successo. I calciatori facciano i calciatori, lui, Balotelli, tirino i calci al pallone. Pensino a tirare i calci al pallone e possibilmente a fare gol, non a inventare pseudo giustificazioni sociologiche. La risposta l'ha data il rappresentante del Congo all'ONUG di Ginevra, e l'ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, c'è su internet, in cui dice: Osho, perché dall'Africa spesso e volentieri voi in Italia, voi in Europa riuscite a ricevere il peggio. Sì, soprattutto, cos'è che ha detto? Osho, soprattutto, non credo che abbia detto Osho, però... Questa è una mia premessa, però per dire però, che insomma... anche solo, se non si arriva alla sentenza depositata ieri del Rom... che ha investito e ucciso un vigile a Milano. Ci arriviamo, devo dare le informazioni sul traffico, la segreteria telefonica, ma ci arriviamo. Siamo con Pina Picerno, onorevole del Partito Democratico, e Matteo Salvini della Lega, perché ripartiamo proprio da qui. Anche questo è successo a Milano: un Rom che investì un vigile è stato condannato a 15 anni ma ha avuto delle attenuanti perché hanno detto è vissuto in una famiglia dove lo hanno abituato a delinquere, e quindi questo garantisce delle attenuanti. 24 mattino. Senta, dottor Mille, ascolti la mia rampogna. È possibile che con i moderni ausili informatici non riescano a capire chi furbescamente non paga l'abbonamento Rai TV? Gli stranieri, quando arrivano, piazzano uno di quelle grosse padellone al balcone, poi si comprano una TV tipo Grande Manifesto, mentre ci sono tanti furbetti italiani. E allora, questa è una tassa iniqua per pochi, oscuriamoli! Vorrei solo sapere... questi grandi maxi processi fatti a Silvio Berlusconi quanto incidono e quanto costano a noi già tartassati italiani? I giornalisti stanno santificando tutti, non tutti, no, il 10% si salvano, ma Berlusconi, adesso è la colpa dei giudici che stanno a fare il processo a Berlusconi. Ma insomma, che facciamo? Milan, sono Omar. Lasciateci la nostra Africa e vi lasciamo la vostra Europa. Quando una società inquina una intera regione della Nigeria, nessuno non dice niente. Un ghanese ne ammassa tre, ne parlano tutti. Ciao! Buongiorno, volevo sapere, ma perché ci avete tutti con ingroia? Perché ha preso le feste, perché è andato, non vuole andare a Ostia, è normale. Evidentemente lui sa benissimo, come sapete tutti, che ha toccato persone che non doveva toccare, per questo è stato mandato lì. Certo che Ingroia è proprio l'emblema del lavoratore statale, tutto diritti e niente doveri. Vabbè, questi sono i suoni e le voci della nostra segreteria telefonica. Allora siamo con Matteo Salvini e Pina Picerno. La sentenza Picerno a cui faceva riferimento Salvini è questa: un rom ieri è stato condannato su tutti i giornali, le prime pagine dei giornali, a 15 anni, ma ha avuto le attenuanti generiche perché, cioè ha avuto delle attenuanti della pena perché è cresciuto in ambienti difficili, era analfabeta, la madre in prigione, una famiglia nella quale insomma ha avuto cattivi esempi, e questa cosa ovviamente fa infuriare i leghisti, puoi immaginare. Immagino, dopodiché le sentenze per quanto mi riguarda si rispettano, non si commentano, questa è una regola diciamo di civiltà che mi riguarda, non sono abituata a commentare, ripeto, al lavoro della magistratura che rispetto e che anzi penso dobbiamo svolgere i magistrati il loro compito serenamente. Troppo spesso non accade, perché troppo spesso la politica ha la pretesa di interferire, no? Lo vediamo continuamente. Sull'atteggiamento dei leghisti, sulle furie dei leghisti, mi viene un po' da ridere, nel senso che conosciamo tutti qual è l'atteggiamento, insomma non devo ricordare qui i giochini su salta il clandestino, insomma tutte quelle robe. No, ma comunque poi ha preso 15 anni, Salvini ha preso 15 anni questo qui, non è che cioè gli ha dato 15 anni di carcere, e come... Quindi rubare una macchina e trascinare per 200 metri un essere umano che sta lavorando e ammazzarlo vale 15 anni, che con gli sconti di pena sono neanche la metà. Ma io adesso non lo so, cioè hanno applicato il codice, io non lo so. Adesso non è che voglio, diamogliene 20, cioè non è un gioco così che possiamo dargli 20. Qui 15 anni sono comunque tanti, 15 anni di carcere. No, ma a parte che in Italia purtroppo 15 anni non sono mai 15 anni di carcere, sono pronto a scommettere che tra 5 anni siamo qua a discutere di un delinquente che è ancora in giro. Io le commento, le rispetto, ma le commento. Ieri sempre sui giornali c'era un altro, questa volta dell'Angola, sempre africano, mi spiace, che è uscito dopo un mese, e quindi qualche giudice l'avrà fatto uscire, dopo aver preso a mattonate una persona e aver staccato a morsi l'orecchio a un'altra persona. Però Salvini ieri a Buscate un padano ha ucciso due padani, cioè se la vogliamo, cioè, Marcisca in galera per il resto dei suoi giorni. Non è che se uno è nero sta in galera di più, capito, se uno è bianco per dire. Qua non è il problema il colore della pelle, è un problema che altro che le sentenze non si commentano. Se una sentenza è una cazzata, mi sento in diritto di dire una cosa. Ma cosa sta dicendo? Però comunque dai, voglio farvi chiudere con un sorriso, perché sennò. Allora, Brunetta, ieri quei bisogna dire quei pazzi, di tutti i pazzi per RDS, chi se ne frega, qua lo diciamo. Tanto poi voglio salutare anche Rossella Brescia che gestisce lì così e ci ascolta. Conosce Rossella Brescia, Salvini? Mi piacerebbe conoscerla. Ma stia attento, che c'ha una figlia di 4 mesi, Salvini, faccia il bravo. Poi Rossella Brescia ci ascolta tutti i giorni, quindi... Ma no, appunto, lancio l'appello, lei ha il mio cellulare, lo lasci pure fuori onda. Ah, va bene, se Rossella Brescia ascolta, lascerò il cellulare di Salvini a Rossella Brescia. Allora, sentite cosa hanno fatto su Brunetta, un rap su Brunetta. Io a Brescia c'ero. Lasciatelo parlare. Io a Brescia c'ero. Chi chiedo a lei, presidente? Chi chiedo a lei, presidente? Vabbè, la rissa verbale, Brunetta Boldrini. Lasciatelo parlare, per favore. Vabbè, insomma, dai, chiudiamo così. Che devo dire? Pina Picerno, grazie. Allora la svegliamo tutte le mattine alle 6:30 con noi? Non proprio tutte le mattine, ma insomma. Ce l'ha fatta pesare, mamma mia. Salvini, grazie. Allora passo il cellulare a Rossella Brescia, Per parlare di lavoro, di sì, notte. ovvio, ma certo, come no, ma certo, è ovvio, questo lo davo per scontato, Salvini, insomma, va bene, grazie, bene. Vi ringrazio, buona giornata, e chiudiamo, sentiamolo sto rap. A due pesi e due misure, come è noto? A due pesi e due misure, lei non lo ha fatto, presidente Boldrini, ha sempre tempo e modo di farlo. La ringrazio. Mamma mia, che tristezza. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. l'Italia si desta. Eccoci, eccoci, siamo nuovamente qui, siamo riusciti a ricomparire alle 7:23 minuti. Allora, siamo pronti a leggere i giornali, abbiamo pochissimo tempo e quindi subito voglio andare alla lettura dei quotidiani. Vi dico solo che parleremo di vitalizi della regione Lazio alle 8:15 e poi avremo ospite uno degli operai della TAV che ieri mi ha molto colpito nel suo racconto, vive sotto minaccia costante e continua perché lavora nel cantiere dell'alta velocità. Questo più avanti. I giornali. È venerdì 17 maggio, piove a Milano, ma penso anche un po' in varie parti d'Italia. I titoli, il Sole 24 Ore, IMU, niente sospensione per gli immobili di pregio. Corriere della Sera, IMU, tensione sul decreto. Il Messaggero, tasse sulla casa, si cambia. La Stampa, Letta sull'IMU, niente miracoli. Questi sono i titoli sull'IMU. È interessante l'apertura di Repubblica. Porcellum, parola alla Consulta. È una notizia che ha solo Repubblica. È un avvocato ha fatto ricorso contro la legge elettorale attuale e la Corte dovrà pronunciarsi sulla legge elettorale se giudicarla incostituzionale. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. E dunque potrebbe essere modificata la legge elettorale che la politica non vuole per una sentenza della magistratura. Il Fatto Quotidiano, sondaggi, Berlusconi vola sulle ali di Napolitano e PD. Libero contro i giudici, un giudice guadagna 5 milioni, la cifra netta che incassa nella carriera, tutta scatti automatici e zero meritocrazia. Il Giornale, conosci Berlusconi? Resti in cella, negata la libertà a un politico perché per il magistrato ha contatti con i vertici del PDL. Per l'Unità, Berlusconi, crisi di nervi. Vabbè, poi altri titoli, ma voglio subito andare alle notizie, sennò incombe già la pubblicità. E allora, che dire? Ebbene sì, uno già mi ha scritto, non mi legga la vicenda della sentenza di Milano, sennò poi no, oggi non ho la forza per tenere le mani strettissime sul volante. Ebbene invece sì, dovete tenerle le mani strettissime sul volante. La vicenda di questa sentenza di un rom, Remi Nikolic, condannato ieri a 15 anni perché travolse un vigile urbano a Milano, lo uccise con la macchina, poi scappò, fu ritrovato in Ungheria, 15 anni di pena, ma il PM ne aveva chiesti 24, ma ha ottenuto delle attenuanti e quindi la pena è scesa a 15 anni perché, secondo i giudici, ha avuto cattivi esempi in famiglia, è cresciuto da analfabeta con la madre in carcere, in un ambiente in cui lo hanno abituato a delinquere quotidianamente e quindi questo è fonte di attenuante. Sconto di pena all'assassino, cattivi esempi in famiglia, così titola per esempio il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella. Tra l'altro Ferrarella fa sapere che addirittura i giudici, essendo lui minorenne, avrebbero potuto anche metterlo in libertà, concedendogli l'istituto della messa alla prova, cioè così come il codice consente, anzi incentiva per recuperare i minorenni. Questo almeno non l'hanno fatto, perché addirittura appunto è scappato in Ungheria, sono andati a recuperarlo, ci mancava pure che gli dessero questa possibilità. Essere rom è una giustificazione per uccidere, questo è il titolo per nulla pacato di Libero con Mario Giordano che fa un commento in prima pagina. Povero sbandato, sei uno sbandato? Attenuante generica, vivi in una famiglia di ladri? Attenuante generica, rubi? Attenuante generica, l'unica scuola che conosce è quella del crimine? Attenuante generica. Il Tribunale di Milano ci ha finalmente chiarito la sua visione del mondo, il delinquente che vive ai margini della società va capito e aiutato. Il cittadino normale che ogni mattina timbra il cartellino, lavora tutto il giorno senza rubare, per dire nemmeno un portafoglio, al contrario, va trattato con massima severità. Ma insomma, tutti i giornali pongono Rome figlio di criminali, merita uno sconto di pena, questo per il Quotidiano Nazionale, anche Repubblica, travolse, uccise un vigile, pena ridotta e abituato ai reati dalla famiglia Rom. A questo dedica anche il Buongiorno Massimo Gramellini sulla Stampa, il titolo è Attenuanti ipocrite. Scrive Gramellini: il 12 gennaio 2012 il vigile milanese Nicolò Savarino era di turno in un parcheggio alla Bovisa quando un ladro di SUV lo travolse trascinandolo sull'asfalto per 200 metri, una morte orribile. L'assassino fu fermato in Ungheria. fu identificato in Remi Nikolic, nato in carcere da una detenuta. Il tribunale dei minorenni gli ha quasi dimezzato la pena da 26 a 15 anni, riconoscendo gli attenuanti generiche perché la sua unica scuola di vita sono stati i delinquenti tra i quali è cresciuto. A me, scrive Gramellini, sembra una sentenza ipocrita e pericolosa. Mentre la mano civile dello Stato frappone mille ostacoli all'inserimento dei piccoli Rom, la mano giudiziaria trasforma quel fallimento sociale in attenuante, un bel modo per sciacquarsi la coscienza, contrapponendo ingiustizia a ingiustizia. Ma si tratta anche di un precedente pericoloso. Adesso qualsiasi persona cresciuta in ambiente disagiato, e Dio sa quante ne sta producendo la crisi, potrà pretendere un analogo sconto di pena. Questa retorica vittimista, che tutto è tranne che virtù dei buoni, darà purtroppo voce alle gole sguaiate di razzisti e accrescerà il consenso sociale verso i dispregiatori di minoranze, sempre più identificate come destinatari di trattamenti privilegiati in una guerra tra poveri, che è il vero incubo da scongiurare. E questo è la notizia che trovate su tutti i giornali per questa sentenza che fa molto discutere. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci alle 7:36 minuti. Allora, è il giorno del Consiglio dei Ministri. Questa mattina Enrico Letta e i suoi ministri dovranno dire una parola chiarificatrice sull'IMU. Per usare le parole dello stesso Premier, non aspettatevi miracoli, cari italiani. Così ha detto Letta, non sarà il decreto dei miracoli. Ieri, vi ricordate, avevo già fatto notare che sul Messaggero Napolitano aveva fatto questo colloquio col Messaggero a dire ci vuole... cos'è che aveva usato? Non sobrietà, ma ci vuole. Non bisogna pensare che arrivino dei provvedimenti economici clamorosi. Ecco, stanno già un po' mettendo le mani avanti dopo questo decreto. Cosa ci sarà in questo decreto? Beh, Il Sole 24 Ore anticipa ovviamente quello che poi, stando le sorprese dell'ultimo momento, potrebbe cambiare tutto. Ma IMU, intanto, niente stop per le case di pregio. Marco Mobile e Marco Rogari raccontano a pagina 7: la sospensione dell'acconto IMU di giugno non riguarderà i proprietari di ville, castelli e quasi certamente anche gli immobili signorili. A beneficiare dello stop saranno invece le abitazioni principali con le pertinenze, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli IACP, dunque le case anche popolari, e gli immobili rurali. Il tutto però, attenzione, ecco questo è il punto, il tutto sarà vincolato a una precisa clausola di salvaguardia, che è questa. Se entro il prossimo 31 agosto il governo non avrà realizzato la riforma dell'imposizione sui patrimoni immobiliari alla insegna della service tax, tutti i contribuenti, per i quali verrà sospesa oggi il pagamento delle tasse dell'IMU, dovranno entro il 16 settembre versare l'IMU che verrà sospesa oggi. Avete capito bene? Quindi la sospendono, ma il governo nel frattempo si impegna a fare questa riforma dell'imposizione sui patrimoni immobiliari. Se entro il 31 agosto, per vari motivi, non si mettono d'accordo, non ce la fanno, cade il governo, se per questi motivi e vari motivi entro il 31 agosto questa riforma non si riesce a fare, politicamente è solo una sospensione e la pagherete a settembre. Per quel che riguarda i conti, insomma, Gianni Trovati fa un po' i conti a pagina 11. Questo decreto blocca IMU dovrebbe valere per 15 milioni di case oggi, proprietari di 15 milioni di case in cui abitano poco meno di 35 milioni di italiani. Niente IMU per ora su 15 milioni di case, per ora, perché c'è questa data del 31 agosto. Infatti anche ieri Renato Brunetta ha detto: se entro agosto non si fa la riforma cade il governo, perché ovviamente vuol dire che ritorna quell'IMU che oggi sospendono. Mentre invece per la CIG, quindi la cassa integrazione, dunque è l'altro tema che verrà affrontato in Consiglio dei Ministri, secondo il Sole 24 Ore, sono sempre Marco Mobili e Marco Rogari che ne scrivono a pagina 8, in arrivo ci sono 800 milioni, questa è la cifra, per la verità sono 750 o 800 milioni, sono quelle le cifre che questa mattina il Consiglio dei Ministri dovrebbe destinare al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, sempre che oggi arrivi un ok all'utilizzo di 250 milioni da prelevare temporaneamente dal fondo per la decontribuzione dei contratti di secondo livello, quindi lo prendono di lì per spostarlo di là temporaneamente. Poi chiaramente, come tutte le coperte, se prendi una cosa la sposti e la tiri e se è corta in qualche modo devi ritrovare. Anche il Messaggero, se volete, è abbastanza chiaro nello spiegare con Luca Cifoni le misure previste oggi, stop all'IMU, 800 milioni a cassa integrazione in deroga, mentre i comuni dicono basta. Chiaramente i comuni, tutti gli italiani, quelli che hanno una casa, sono la prima casa, sono felici per questa sospensione. I comuni un po' meno, perché chiaramente era un bel tesoretto che andava a finire, anche se non è la vecchia ICI, è l'IMU, però insomma i comuni ci contavano molto. Infatti il pressing dei comuni, racconta il Corriere della Sera con Mario Sensini a pagina 5, è questo. Adesso basta tagli. Sono arrivati questi blocco dell'IMU, ma per questo ieri i sindaci si sono precipitati a Palazzo Chigi prima del varo del decreto sull'IMU per avere garanzie che ora tagli non ce ne saranno più. In tutto questo il presidente di Confindustria Squinzi viene intervistato dal Sole 24 Ore da Adriana Cerretelli e rilancia quella che definisce lui una politica europea per la crescita e l'occupazione. L'intervista la trovate in prima pagina e poi a pagina 3. Squinzi dice: gli Stati Uniti sono ripartiti, trainati da edilizia e auto, il Medio Oriente continua ad andare forte con le risorse finanziarie che accumula, l'Asia rallenta ma il suo tasso di sviluppo scende dal 9 al 7,7% annuo. Insomma, l'unica è l'Europa, che è l'unica area dell'economia globale in sofferenza. A cosa pensa in particolare Squinzi per uscire da questo declino? Tornare a investire su crescita, produttività, ricerca e innovazione con incentivi al mercato del lavoro, soprattutto per i giovani, con patti generazionali anche a livello europeo, una politica industriale europea coerente e integrata in tutte le sue articolazioni. Insomma, ci vuole più Europa, dice Squinzi, intervistato dal Sole 24 Ore. La politica invece, beh, tutti ovviamente guardiamo questa mattina cosa succede al Consiglio dei Ministri. La politica è tutta una solita rissa, beghe. Ieri con l'intervista ad Avvenire il capogruppo del PD Luigi Zanda ha rilanciato sulla ineleggibilità di Berlusconi. Berlusconi che dice finisca la guerra civile. Su questa storia dell'ineleggibilità ha litigato tutto il giorno. Il Giornale con Adalberto Signore fa sapere in un retroscena che Berlusconi avverte la sinistra: così rischiate di sfasciare tutto e questo sarebbe il clima da larghe intese e pacificazione, cioè parlare di mia ineleggibilità. C'è Iena sulla Stampa in questi giorni, sempre più graffiante. Dite a Zanda che Berlusconi è già stato eletto e governa insieme a lui. Così la vede Iena. E poi c'è l'altro aspetto, insomma, che Berlusconi ha deciso di non comparire più in piazza, almeno l'unica manifestazione che farà sarà a supporto di Gianni Alemanno, il candidato sindaco a Roma. Il Cavaliere lascia le piazze, non reagiamo ai falli subiti. Silvio, questo per la Stampa, per Libero, Silvio rinuncia ai comizi in nome di Napolitano, racconta Salvatore Dama. A pagina 4 di Libero qualcuno fa sapere che non è tanto e solo l'appello, insomma, dopo quello che è successo a Brescia, le contestazioni, a moderare i toni, che ha spinto Berlusconi a non apparire se non a Roma, ma anche un po' di stanchezza. Oddio, ieri le agenzie dicono che è andata a una cena per Alemanno cantando in francese, quindi sembrava in gran spolvero. La notizia forse più interessante di Repubblica è questa, riguarda un argomento che è francamente nettamente il più noioso in Italia, la legge elettorale, nettamente il più noioso. Ma la notizia però che da Repubblica, solo Repubblica, è succosa ed è infatti la notizia di prima pagina. Porcellum, parola alla Consulta. Che cosa succede? Racconta Liana Milella, è giunto il momento del verdetto finale sul Porcellum. Sentite bene, eh? Ancora una volta, mentre la politica volutamente cincischia sulle riforme, la svolta arriva dalla magistratura. Succederà così anche con la legge elettorale, perché la Cassazione ha deciso che l'ultima parola sulla legge Calderoli del 2005 spetta alla Corte Costituzionale. Lo ha fatto accogliendo il ricorso di un avvocato, Aldo Bozzi, a nome di altri 27 firmatari. Manca solo la materiale diffusione di questa decisione, ma ormai è questione di ore, anticipa Repubblica. Lì è scritto che la Consulta può decidere sui pesanti rilievi mossi da questo avvocato Bozzi al Porcellum. Una legge truffa peggiore di quella che ne porta il nome e che al suo confronto era bellissima, tagliacorto Bozzi. Quando nel suo studio di Milano apprende da Repubblica che la decisione ha deciso che la Cassazione ha deciso in linea con quanto proprio lui chiedeva alla fine di un articolato ricorso pesante di oltre 50 pagine. Aldo Bozzi, 79 anni, voce di un giovanotto, energia pura, nipote prediletto dello zio che aveva lo stesso nome, famoso liberale protagonista della Resistenza. La mia, dice, è una ribellione personale. Ho fatto questo ricorso perché è una legge vergognosa, un imbroglio pazzesco che produce un Parlamento di nominati e non di eletti. Insomma, secondo Repubblica, secondo la decisione della Cassazione, che ha raccolto e ha accolto l'appello e il ricorso di un avvocato, Aldo Bozzi, nipote dello zio liberale Aldo Bozzi, stesso nome, stesso cognome, sarà la Corte Costituzionale a decidere, e è una questione di giorni, un pronunciamento di pochi giorni, fa sapere Repubblica, addirittura secondo Francesco Bei, o la politica risponderà in 7 giorni, tempo 7 giorni, una settimana, oppure c'è il rischio di questo pronunciamento in cui la Corte Costituzionale potrebbe pronunciarsi e definire incostituzionale la legge Porcellum. Beh, sarebbe davvero incredibile. I politici, tra l'altro oggi vi ricordo, come scrivo su Twitter, che finisce la seconda settimana decisiva per la riforma elettorale. Come oggi scade, finisce la seconda settimana decisiva per l'abolizione delle province. Sarebbe incredibile, laddove i politici non hanno mai fatto nulla per cambiare la riforma elettorale, dovesse arrivare ancora una volta una sentenza della magistratura a fare quello che dovrebbe fare la politica. Che straordinario paese, eh? Eccoci qua, in tutto questo la politica cos'ha di altro? Beh, Repubblica fa sapere, con Ettore Livini, fa tutta un'analisi finanziaria dell'andamento di borsa delle società di Silvio Berlusconi, il titolo effetto larghe intese su Fininvest, ieri bingo in borsa da 88 milioni, ieri le società quotate appartenenti a Berlusconi hanno guadagnato 88 milioni di euro e dopo il voto, dal voto, le società di Berlusconi sono più ricche del 43% rispetto a prima del voto. Il PD invece, Chiamparino, sembra crederci sempre di più, intervistato da Paolo Griseri su Repubblica, pagina 7, Sergio Chiamparino dice: sono pronto a correre per la segreteria, ma voglio un partito socialista e liberale. Ha avuto anche l'endorsement di Matteo Renzi nei giorni scorsi. Insomma, l'ex sindaco di Torino Chiamparino dice: ok, sono pronta a correre per la segreteria. Grillo invece, qualcuno titola fa un po' leghista, perché ieri in un post ha detto quanti sono i cabobo, vuol dire quel ghanese che ha ucciso 3 persone a colpi di piccone in Italia. Non lo sappiamo, l'Unità lo attacca così, Grillo fa il leghista, ci sono troppi cabobo. Ma devo dire, la notizia che ho trovato più spassosa legata al mondo Movimento 5 Stelle l'ho trovata in prima pagina del Fatto Quotidiano. Cioè, spassosa non perché non è un giudizio legato alla notizia in sé, ma quando l'ho letta in prima pagina, voi immaginatevi alle 6 del mattino, ho letto questo titolo di prima pagina del Fatto: Rocco Grillo e il tema che mette all'indice papà Beppe. Ma io ho detto, l'ho dovuto rileggere 4 volte, ma perché ero ancora impastato dal sonno? Che vuol dire Rocco Grillo e il tema che mette all'indice papà Beppe? Beh, vuol dire che, come scrive in una ampia pagina Beatrice Borromeo, a pagina 5 del Fatto Quotidiano, hanno dato nella scuola dove Rocco, cioè il figlio di Beppe, Rocco Grillo, sta preparando la maturità, hanno dato un tema su commentare le ultime elezioni. È solo che tra lo sdegno del figlio di Beppe Grillo, gli editoriali da commentare per questo tema a supporto della traccia erano tutti editoriali contro il Movimento 5 Stelle. C'era un editoriale di Giuliano Ferrara, c'era addirittura, gli hanno chiesto di argomentare la somiglianza tra suo padre e Kim Jong-un in Corea del Nord. Ma vedete che allora io, che lo chiamo Kim Jong Grill da mesi, non insomma, potrei fare l'insegnante di questo liceo dove va a studiare Rocco Grillo. Comunque, Grillo Junior e il tema fazioso sul Movimento 5 Stelle, solo tracce contro. La prova nel liceo del figlio, alcuni studenti protestano, e Il Fatto vi dedica una pagina intera. La carta costa, la carta costa. Tra l'altro il tema di Grillo, troppi cabobo in Italia, viene anche lanciato sul Quotidiano Nazionale, dove peraltro c'è un'intervista di supporto che può fare anche discutere, nel senso che non è un'intervista che giustifica assolutamente, però viene intervistato l'ex calciatore del Ghana, Stefan Appiah, che ha giocato in varie squadre, la Juve, nell'Inter. No, nell'Inter non ha giocato per la vita. Udinese, Parma, Brescia, Bologna, Cesena, insomma, ha giocato in Serie A per 10 anni. Signor Appiah viene intervistato da Giulio Mola, che lo raggiunge in Ghana. Sì, ho saputo, sono ad Accra, è pazzesco, non so cosa possa essere accaduto. Ma eccolo lì che aggiunge questa frase: ma dovete considerare che tanti ragazzi che arrivano dal Ghana hanno avuto un'infanzia d'inferno. Io stesso giocavo a calcio per mangiare. Quando lo seppe il mio maestro mi frustò, e al mio arrivo in Italia mi nutrivo solo con pane e biscotti, perché quando mi portavano gli spaghetti non sapevo usare la forchetta. Non è una giustificazione, ma può far comprendere la follia. Ecco qui Appiah: a volte la fame può alimentare la follia, e via con altro giustificazionismo, aggiungendo però: no, ma non voglio giustificare, però chiudo. Spesso mi dicono: non dai mai buone notizie. Oh, adesso vi do una bella notizia, soprattutto per lui, per il protagonista. Ragazzi, pagina 18 di Libero: l'uomo più fortunato al mondo vince 4 volte alla lotteria nel giro di 10 anni. È un ex postino americano della Virginia, Melvin Wilson, nel giro di 10 anni, sfidando tutte le statistiche che davano una probabilità a livelli astronomici, una su cifre astronomiche, di vincere 4 volte la lotteria. L'ultima volta ha vinto, per la verità ha vinto il secondo premio, $500,000 ha vinto nei giorni scorsi, ma prima aveva vinto altre $500,000 anche nel 2004, €25,000 solo, cosette così nel 2005, $1,000,000 aveva vinto nel 2005, adesso altri $500,000. Lo vedete qui ritratto in foto su Libero, l'uomo più fortunato del mondo. La nostra amica Paola Saluzzi mi ha scritto anche su Twitter: come si fa a vincere? Ci dia la ricetta. Beh, cominciamo con una bella fetta di culo e poi dopo il resto, non so, mettetecelo così, comprate dei biglietti della lotteria. 24 mattino. Siamo qui alle 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, una delle cose che fa più arrabbiare gli ascoltatori quando sentono parlare di vitalizi della politica, certamente uno dei temi che più fa, come dire, mettere tutti già sull'attenti. Voglio salutare il presidente della commissione bilancio alla Regione Lazio, si tratta di Mauro Buschini del Partito Democratico. Presidente, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora, partiamo dalla buona notizia. Ieri in commissione bilancio avete deciso, come peraltro era scritto nella finanziaria, che nella Regione Lazio non ci saranno più i vitalizi per i consiglieri regionali. È così? Cioè basta questo vitalizio? Ma anche se uno fa 30 anni di legislatura non esiste più? Noi probabilmente disciplineremo con una legge successiva la fase sul contributivo, cioè l'idea di assicurare a chi svolge per almeno 10 anni la funzione di consigliere regionale un riconoscimento, ma esclusivamente rispetto a quanto contribuisce, cioè tutto sul contributo. Come tutti gli italiani, insomma, che sono passati al contributo. Certamente, come tutti coloro che nell'arco della vita svolgono una determinata funzione o un lavoro. Ma il vitalizio, così come lo abbiamo inteso e come l'abbiamo conosciuto nella regione Lazio, è abolito. È abolito, soprattutto quel, magari il contributivo, magari non con quella proporzione che c'era, che non so, uno lavora 5 anni da consigliere e si prende magari 1500 almeno euro. Almeno 10 anni di funzione, diciamo, quindi almeno 2 legislature, almeno o comunque 10 anni. Perché, però... Quindi questa è la buona notizia. Non c'è più quella possibilità di riscattarsi il vitalizio dopo anche un solo consiglio regionale. Sì, sì. Contano gli anni, 10 anni. Almeno dieci anni e poi un sistema un po' più equo rispetto a tutti gli italiani. Oh, però c'è stato ieri il Movimento 5 Stelle che ha presentato un emendamento in Commissione Bilancio che è stato bocciato, perché volevano bloccare anche retroattivamente i vitalizi che non erano stati ancora erogati per i consiglieri precedenti, e tutti subito a pensare tra questi a Franco Fiorito. Perché l'avete bocciato questo emendamento che bloccava quelli del passato? No, c'è un tema importante. La legge retroattivamente su un diritto acquisito avremmo esposto la regione Lazio ad una serie di ricorsi, perché si tratta appunto di diritto acquisito nel corso degli anni, una contribuzione sebbene. Buschini, però un attimo, scusi un attimo, Buschini, ma dov'è col cellulare? Perché non si sente una parola. Ha l'auricolare, le posso chiedere di. Un posto in cui si sente un po', cioè lei dice che con questo emendamento ci sarebbe stata una serie di ricorsi, perché quelli sono diritti acquisiti che anche il Parlamento mi sente meglio? Sì, adesso sì, che anche il Parlamento quando, se lei ricorda, il governo Conti propose di mettere ordine i vitalizi, provò a inserire la clausola della retroattività. Però fu costretto a mettere da parte questo tema perché si accorsero che il diritto acquisito non poteva essere È fantastica sta cosa, perché sa, tutti gli italiani, anche quelli che si sono ritrovati esodati dal giorno alla notte, pensavano di avere dei diritti acquisiti, invece lo so. Me ne rendo perfettamente conto. Io però da amministratore regionale credo che dobbiamo tutelare la regione da una serie di ricorsi che avrebbero avuto ragione, con pochi problemi alla regione, successivamente. Avrebbero anche vinto, questo è il problema. Infatti la colpa esattamente. Il punto è che quei ricorsi li avrebbero anche vinti. C'è un tema, però mi permetto di precisarlo. L'articolo numero 8, quindi l'articolo numero 8 al collegato che andrà in consiglio regionale, sì, ed è già stato approvato anche questo dalla commissione. Vede, a volte il Movimento 5 Stelle non la racconta tutta, diciamo. Fanno i furbetti, dice. Cioè, non la raccontano per intero. C'è un articolo che dice che a tutti coloro che avranno maturato il diritto al vitalizio, e questo anche per i consiglieri delle legislature precedenti, coloro che avranno una condanna perderanno il diritto al vitalizio. Ah, ecco, perché lei dice se Fiorito mai, giusto per renderlo, calarlo. No, siccome si fa sempre l'esempio Fiorito o di qualcun altro. Perché è sotto processo, è stato arrestato, adesso è domiciliare, ci sarà un processo. Diciamo, se venisse condannato, ma anche se, cioè, deve essere condannato con interdizione ai pubblici uffici, o anche basta la condanna? Condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Contro la pubblica amministrazione. Però la domanda qui, la controdomanda è questo: poniamo il caso che uno subisca una condanna a 5 anni per un reato per la pubblica amministrazione, perde il diritto al vitalizio per sempre o per soli quei 5 anni? Poi una volta La legge parla di condanna e non di pena. Quindi la sola condanna fa perdere il diritto per 5 anni. No, non per 5 per anni, sempre. Fa perdere il diritto per sempre. Per sempre. Ah, per sempre. Quindi dovesse arrivare una condanna, in realtà non uno per reati contro la pubblica amministrazione non prenderebbe mai il vitalizio. Dopodiché c'è un altro aspetto, questo puramente di diritto. In base a cosa? Solo per la nona legislatura e quindi la precedente avremmo dovuto abolire i vitalizi. E quelli ancora precedenti? Quindi e quelli già, ma quelli già lo prendono, quelli già lo ricevono, lo percepiscono. Non tutti. Perché alcuni non hanno maturato per l'età. Alcuni esattamente non hanno maturato per l'età. Senta, vabbè, ma diciamo... C'è un altro aspetto, anche l'istrumentale. Fiorito, qualora dovesse maturare il diritto al vitalizio, lo ha maturato anche per una legislatura precedente, l'ottava. Non solo per la nona. Ah, e non è che quindi per quello la prende? No, una condanna, una eventuale condanna cancellerebbe tutto. Senta, però, presidente Buschini, le chiedo questo: invece, consiglieri regionali come va? Cioè, per esempio, lei ci vuol dire la sua busta paga? Tra l'altro, lei prende da presidente della commissione di bilancio, prenderà anche un'indennità ulteriore, no? Assolutamente no. No. Lo stesso collegato dice che sostanzialmente non esistono indennità aggiuntive se non per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio regionale. Perfetto, quindi già adesso operative queste disposizioni? Sono di fatto già operative e comunque saranno definitive appena approvato il collegato tra qualche giorno il Consiglio regionale. E noi portiamo di fatto... il netto, perché è bene parlare di netto per la chiarezza nei confronti dei cittadini, il netto del consigliere regionale del Lazio non supererà i 6.800-7.000 euro al mese, ogni comprensivo, quindi senza rimborsi aggiuntive, senza rimborsi, cene, feste, senza norme nascoste che poi magari è chiaro. E quant'è 6.800? Come lo quantifica lei? Giusto 6.800-7.000 euro? Diciamo, è giusto uno stipendio equo? Ma secondo me, guardi, le faccio il caso per me che ogni mattina vado da Frosinone a Roma senza con la mia auto di proprietà e senza rimborsi aggiuntivi. Diciamo che a fine mese sull'autostrada avrò lasciato almeno 1.700-2.000 euro al mese. Quindi ne rimangono 5.000 ne rimangono. Però, diciamo, vanno detto onestamente, non è uno stipendio male, ma io credo che sia equo, insomma. Ecco. 5.000 euro, però quanti italiani adesso la sentono e dicono: accidenti, guadagnassi io. Comunque... Siamo come dite, sopra una soglia media molto importante. Abbiamo tagliato il 40% rispetto a chi ci ha preceduto. Questo sì, perché lo stipendio medio è 1.600, 1.700, 1.200, chi guadagna con 1.000 euro. A volte anche 1.000, sì. Appunto. Molto spesso anche. Però lei dice, per fare questo lavoro anche tutti i giorni da Frosinone a Roma è una cosa equa. No, perché ci sono migliaia di pendolari che lo fanno, dico... che comunque quella funzione ha comunque un costo, spese, le ripeto, non è male, siamo sopra la soglia media, siamo comunque privilegiati, ma mi preme dire che rispetto a chi ci ha preceduto abbiamo tagliato del 40%. Va bene, io intanto la ringrazio, presidente Buschini, grazie per essere stato con noi. Ricordo grazie Mauro Buschini. A lei dell'occasione, un saluto agli ascoltatori. A lei, Mauro Buschini, è presidente della commissione bilancio alla regione Lazio del Partito Democratico. E allora noi ci fermiamo, c'è la pubblicità e il meteo. Poi vogliamo parlare, ci sono stati tanti scontri e tante polemiche sulla TAV, l'alta velocità. L'ultima frontiera è quella delle minacce alle persone che ci lavorano, persone che lavorano tutto il giorno per 1.200 euro al mese e che in valle fanno fatica a vivere. Cercheremo di raccontare qual è il clima all'interno della TAV. Fatevi Fatevi vivi anche voi, cari ascoltatori. 800 24 00 24 per parlare di TAV. Lasciamo stare la questione adesso dei vitalizi. Che ne pensate del fatto che ci siano molte persone che prendono di mira chi lavora al cantiere dell'alta velocità in valle? Li hanno accusati di essere dei crumiri, li hanno accusati di lavorare per un'opera sbagliata, li accusano dicendo c'è lavoro e lavoro, non è che si può sempre non distinguere. Che pensate di questo? Al di là di quello che pensate sull'opera o meno, che pensate del clima che si sta vivendo nella valle? 24 mattino. Allora, mi ha molto colpito, cari italiani, leggere ieri sulla stampa, sui giornali, la storia per esempio dell'ultimo operaio che è stato colpito, è stato ferito, operaio della TAV a Chiomonte, che ha raccontato e si è sfogato ieri sulla stampa dicendo: vengo ormai pedinato, minacciato, faccio una vita d'inferno per 1240 euro al mese, minacciato continuamente, perché la mia colpa è quella di lavorare al cantiere della TAV in Val di Susa, dove tutti mi conoscono. Tra l'altro noi lo abbiamo contattato, questo operaio doveva essere con noi anche lui questa mattina, ma ci ha fatto sapere di avere ricevuto, come dire, che il clima non è dei migliori, di avere letto sui siti dove i notav, no, non i notav, qualcuno che magari ha una testa calda e che prende a pretesto la questione dell'opera, l'opposizione anche legittima se si vuole all'opera, per hanno usato questi siti per sfogarsi nuovamente con minacce, per cui all'ultimo momento ha deciso, per non aggravare la sua posizione, di non ulteriormente parlare. Però insomma, questo fa capire il clima che c'è in valle. Voglio salutare un senatore del Partito Democratico, Stefano Esposito. Buongiorno senatore, ecco la linea è caduta, la recuperiamo subito. Saluto allora Sandro Plano. Buongiorno Plano. Buongiorno. Presidente della nuova comunità montana, è stato anche sindaco a Susa. Tra poco con noi ci sarà anche il senatore Esposito. Senta Plano, lei che ha sempre detto di essere contrario a quest'opera, ma indipendentemente dal pro e contro, non è tanto quello che mi interessa. Io sono inquietato dal clima che si è creato. Le sembra normale che un operaio che lavora per 1240 euro al mese debba essere controllato dai carabinieri sotto casa perché riceve minacce continue? Assolutamente no. Non è normale da condannare ogni tipo di minaccia, ogni tipo di intimidazione. Però voglio dire, perché si è creata questa situazione secondo lei? Ma guardi, ci sono situazioni esasperate. Poi al di là dell'episodio, che non è assolutamente da sottovalutare, credo che si tratti anche di un caso isolato, perché ci sono decine di persone che lavorano in quel cantiere che non sono assolutamente minacciate, quindi non riesco neanche a capire questa situazione particolare o questo accanimento nei confronti di una persona. Le posso dire, ci sono altre persone che lavorano lì anche con posizioni di rilievo che girano indisturbate, non hanno mai avuto nessun tipo di minaccia. Però scusi, nei siti l'ha vista anche lei le accuse: fate un lavoro per un'opera sbagliata, siete dei crumini. No, ma quello, ripeto, sono tutti atteggiamenti da condannare. Però io vorrei anche inquadrare il problema nel contesto generale. Dice. In tutta Italia stiamo vedendo che la gente si ammazza, si spara, si brucia, cioè è una situazione veramente critica in tutta Italia. Se è quello che io contesto al governo, in modo particolare al vicepresidente del Consiglio, viene qui a parlare di tentato omicidio quando si sono verificati degli episodi che certamente sono da condannare, ma credo che il governo debba inquadrare i problemi nella giusta dimensione. È esagerato dire tentato omicidio per le moto. No, è assolutamente non c'è stato un ferito, non c'è stato niente, ha bruciato un compressore. Quindi se si vogliono utilizzare questi fatti, ripeto, condannabili, per aumentare il livello di tensione, per giustificare l'impiego di nuove forze, credo che... Lei ribalta il tavolo, sta dicendo che stanno esasperando delle azioni dimostrative. Da parte degli esponenti del governo, anche da parte del senatore Esposito, che probabilmente è lì. Sì, adesso ci ha raggiunto. Che continuano a confondere quelli che sono atti di teatismo con atti di terrorismo. Allora bisogna definire le cose nella loro giusta dimensione. Sono atti di terrorismo, sono atti violenti, ma il terrorismo e il tentato omicidio sono un'altra cosa. Allora, senatore, visto che l'abbiamo recuperato, senatore Esposito, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro, buongiorno. Lei si stava discutendo con Sandro Plano anche intanto del clima che c'è. Sandro Plano ci diceva l'operaio che ieri ha raccontato alla stampa che doveva essere con noi anche stamattina, ma ha avuto, dice, altre minacce, quindi preferisce non parlare. È un caso isolato. Ci sono tante persone che lavorano. Invece lei dice che non è così. Ma guardi, io devo dire. Sono incredulo nell'ascoltare le parole di Sandro Plano. Questa mattina, sul sito notav.info è uscito un articolo dal titolo Il povero operaio minacciato che correva i rally. E cosa si dice di lui nei bar di Chiomonte? È esattamente la persona di cui stiamo parlando. Se lei avesse modo di leggere questo ennesimo post pubblicato sul sito ufficiale dei Notav, scoprirebbe che esprimono il pensiero che ha appena espresso subdolamente Sandro Plano. Peccato che si parla di questo operaio che non è lo stesso che è stato aggredito nell'agguato di una decina di giorni fa, sono due soggetti diversi. Quindi intanto, caro Plano, siamo già due. Se poi tu ti riferisci alle persone che non vengono minacciate e che lavorano in cantiere e che sono stati tuoi ex assessori della giunta di Susa, evidentemente sarebbe facile per me dichiarare che vengono selezionati gli amici di Plano dai nemici di Plano. Vabbè, adesso non facciamo una cosa personale. No, però vede, io le dico molto francamente, io partecipo volentieri a tutte le discussioni, però non sono disponibile ad accettare che si faccia finta che non sia successo niente. A Sandro Plano ricordo che non è stato il ministro degli interni a parlare di tentato omicidio, ma del procuratore della Repubblica di Torino, Giancarlo Caselli. A proposito di Caselli... Non la buttiamo sempre in politica, perché Caselli è un'altra cosa. No, ma certo, il procuratore capo di Torino, che peraltro spesso è stato nel mirino anche di... Solo per aver aperto le indagini contro i violenti del movimento. Sandro Plano, lei che posizione ha nei confronti di Giancarlo Caselli, procuratore capo a Torino? Che, ripeto, spesso è entrato nel mirino dei Notav in generale, viene criticato, si dice. Lei che ne pensa di Caselli? No, io ho grande stima del procuratore Caselli, però le ribadisco anche che il senatore Esposito vive a Venaria, io vivo qui, quindi la situazione la conosco, se permette, meglio io di lui. Allora, quello che continuano, e lui è uno dei responsabili di questo clima, di questa escalation, sia per le dichiarazioni, sia per i toni che usa, su un problema che è grave, su un problema che è evidentemente molto sentito in questa valle, il fatto che qualcuno, e lui è uno di questi, continui a gettare benzina sul fuoco con dichiarazioni che hanno il solo scopo di crearsi della pubblicità giornalistica, allora certamente non depone a favore della serietà di esponenti del governo che invece dovrebbero cercare di inquadrare il problema nella loro giusta dimensione. Poi che il vicepresidente del Consiglio il giorno prima vada a fare un comizio o partecipare a un comizio contro i giudici, oppure si schieri davanti al Palazzo di Giustizia di Milano e poi il giorno dopo venga a invocare la giustizia e venga a parlare di tentato omicidio, per me questo non è assolutamente corretto. Non è corretto. Vabbè, qua Esposito, adesso io devo andare alle informazioni sul traffico, poi voglio entrare perché lei ieri anche ha fatto uno sfogo dicendo nomi e cognomi di persone che sulla questione della TAV dice invece al contrario, si fanno belli dicendo no alla TAV, ma in realtà lo fanno anche loro per mostrarsi, ecco, per avere, come l'ha definito lei, il coccodrillino della Lacoste sulla maglietta. Eccolo qui, tra l'altro ce l'ho qua, il post Stefano Esposito, il post su notav.info, il povero operaio minacciato che correva i rally, e cosa si dice di lui nei bar di Chiomonte. Raccontano in questo post che la sassaiola che lui ha denunciato in realtà chissà che non sia legata alle sue difficoltà a avere rapporti con i colleghi, visto la sua propensione allo sputtanamento dell'azione dei colleghi. Vabbè, è una storia molto strana definita dai Notav. Al di là di questo, Esposito, secondo lei chi sono quelli che si vogliono fare belli dicendoci sono Notav? Ma guardi, la storia di questi ultimi due anni a Chiomonte è una storia fatta di di violenza e non devo ripercorrerla. Naturalmente ci sono stati in questi due anni, non è finita, l'altro giorno è toccato a Gabriele Salvatores, noto regista, c'è tutto un mondo intellettuale, alcuni circoli giornalistici, una parte della politica, artisti, comici, che hanno, non conoscendo praticamente nulla di quello che sta avvenendo, non conoscendo il merito della realizzazione di quest'opera, non hanno mai perso occasione sia per accarezzare questo movimento, compreso nelle sue espressioni violente. Ma con chi ce l'ha? Cioè, a chi si riferisce? Guardi, da Fabio Fazio, che ospita nella sua trasmissione i monologhi di Luca Mercalli contro la Torino-Lione, senza mai prendere posizione contro le azioni violente, o Caparezza, che viene insieme alla Mannoia a fare un concerto e sventola la bandiera Notav. Ci sono intellettuali come Revelli, lo stesso meteorologo Mercalli, insomma l'elenco è molto lungo. Ma secondo lei cosa c'è di male in queste persone, nel senso che non si può essere contrari all'opera? Io, a differenza di quelli che tirano le pietre e fanno gli agguati agli operai, penso che sia legittimo dissentire dall'opera. Io, come ho cercato di dire a più riprese, il dissenso verso l'opera è del tutto legittimo, ma siccome il movimento Notav ha cullato nel proprio seno questa parte violenta che ormai ha preso il sopravvento, come mi pare evidente, io non ho ancora sentito da parte di queste persone una condanna ferma nei confronti della violenza. Poi Santoplano, che li rappresenta bene, dice sì, bisogna condannarli, ma Adesso glielo richiediamo, perché effettivamente la questione di adesso non so se abbiano preso il sopravvento, ma certo, se uno in 100 persone oneste trova 3 violenti, purtroppo quei 3 violenti sono quelli che se non altro prendono il sopravvento dal punto di vista mediatico e fanno più danni rispetto ai 97 che invece si comportano in maniera civile. Mi faccia sentire un ascoltatore. 800 24 00 24, Costantino dalla provincia di Torino, da dove ci chiama? Ciao, sono Costantino Medezè, Torino. Sì, sì. Ciao, allora io sono contrarissimo all'opera, in quanto stanno distruggendo il nostro territorio. Basta vedere i risultati di Torino 2006, cosa ci hanno regalato, cosa è rimasto, aziende che hanno lavorato e non sono state pagate. Al di là dell'opera, Costantino, qui non è tanto che stiamo parlando pro o contro, è una legittima posizione la sua, ma cosa pensa invece del clima? Lei lo conosce il clima di quelle zone? Certo. Allora, qui siamo in uno stato di guerra, e quando siamo in guerra contro il nemico non porgo un fiore, perché se lui uccide me o tenta di uccidermi devo difendere. Ma guerra di che cosa? Di Ma scusi, guerra di che cosa? Adesso è un'opera, poi si può, è un'infrastruttura. È un'opera voluta da chi? Quando è un'opera imposta da un altro stato, voluta da chi? Sì, però mi scusi, Costantino, io no, ma io le avete interpellato. Va bene, ma non rifacciamo la storia di questo. Su questo la posso seguire, ma lei ha usato la parola siamo in guerra, ma certo, siamo in guerra, perché qua la gente sta morendo di fame, vediamo i soldi dello Stato, di chi paga le tasse, buttati. Quando arrivano i carabinieri vanno a dormire 80-90 chilometri negli alberghi di lusso, e ci sono le caserme di Rivoli dove possono ospitarli. E chi li paga? Senta, li paghiamo noi? Costantino, lei che ne pensa degli agguati, pochi o tanti, da approfondire agli operai? Sono giusti? Persone che guadagnano? Allora, ti dico, da noi si dice ladro è chi ruba e chi tiene il sacco. Quindi le giustifica, insomma, queste... Certo, le giustifico. Ma come giustifica? Ma sono persone che devono portare a casa lo stipendio, cioè... Allora, quelli devono portare... Io cosa devo portare a casa? Io cosa devo portare a casa? La morte? Ma allora, davanti ai soldi, tu sei giustificato? Perché tu dietro ai soldi sei giustificato? E io che cosa sono giustificato? Ma io devo morire? Ma Costantino, perché? Ma giustificato? Ma quello è un operaio che va in cantiere, che male fa, voglio dire. Sta facendo il suo lavoro, mica sta facendo il boia andare a impiccare le persone. Io che subisco, che me l'ha fatto? Io che subisco questa violenza, che male sto facendo? Io ripeto, va bene, io comunque Costantino, questo è il suo sfogo, come vede qua siamo aperti a tutti. Sandro Plano, lei insomma ha sentito anche la veemenza con cui Costantino è arrabbiato. Guarda che è un problema italiano. Ma certo che è un problema italiano. No, ma è un problema italiano il clima che si sta creando. Ma sicuramente. Il clima che si sta creando, purtroppo del tutti contro tutti, anche io invece su questo non seguo Costantino, cioè che male c'è a prendersi con uno che lavora al cantiere della TAV e porta a casa 1200 euro al mese per lui e la sua famiglia. Ma infatti, che ne dica il buon senatore che sta parlando, che sta parlando, io la violenza la condanno senza se e senza ma. Questo credo che sia chiaro e credo che i personaggi in cerca di pubblicità non siano solo gli intellettuali, ma anche qualche senatore che abita a Venaria, che non ha nessun tipo di rapporto con la valle, dovrebbe farsi i cavoli suoi, e viene a contestare me perché difendo la mia valle e difendo la mia gente. Però non mettiamola, ripeto, su una cosa così personale. Visto che il tal signore continua a accusarmi di connivenza con la violenza, io le dico... No, ma non è connivenza, perché cioè, il concetto è che effettivamente ci saranno pochi violenti, ma è vero che hanno preso il sopravvento. Scusi, ma quando le dico che condanno la violenza senza se e senza ma, non vuole dire che io devo continuamente, tutte le volte che lo vuole lui, condannare i violenti. Li ho condannati. Ci ho detto, il problema della Valle di Susa è un problema generalizzato, è un problema di lavoro che non viene risolto con un cantieruccolo delle balle che sono 2 anni che sono lì che fanno 100 metri di scavo. Tipico esempio di mancanza di programmazione italiana, perché sono 2 anni che presidiano un pezzo di terra per fare 100 metri di scavo, e questa qui sarà l'ennesima riprova di come vengono condotti i cantieri. E abbiamo, come vi dicevo l'ascoltatore prima, gli esempi eclatanti delle Olimpiadi in Alta Valle, con delle gallerie che devono essere finite nel 2006, sono ancora lì. Allora, questo la gente la vede, la tocca, non la legge sui giornali qui in Valle di Susa. No, ma, allora, quando noi facciamo una manifestazione con migliaia di persone, pacifica, tranquilla, e non viene assolutamente ascoltata, perché le ragioni che stiamo portando avanti noi non sono stupidaggini. La Corte dei Conti francese ha criticato quest'opera, quindi non siamo degli pochi idioti. No, ma certo, lei dice se ci sono dei pochi, lei l'ha ribadito e lo ribadisce sempre, li condanna senza se e senza ma. Io qua mi devo fermare e vi ringrazio, torneremo su questa vicenda e su questo clima, come ha testimoniato bene Costantino. Grazie, sono le 8.55, un saluto a tutti, ci troviamo lunedì alle 6.30. 24 mattino.